pensato a te, magari qualche volta, magari pochi istanti, o forse tanti anni, il tempo non lo so, non posso misurare quanto ce ne sia, dal vivere alla mare. Ho pensato a te, a quanto adagio adagio, mi hai rapito gli occhi, era molto più che un bacio, ed è impossibile spiegare anche al mio piano quel brivido improvviso quando mi hai preso la mano. Nessuno mai saprà, nessuno capirà, nemmeno tu che adesso sei lontana. E adesso lasciami sognare, proprio adesso che sei me, rimani qui, stringimi forte, senti questa luna piena che sta nascendo dentro noi, e come questo cuore trema quando si schianta dentro agli occhi tuoi. E ridammi indietro i miei pensieri che sono caduti fin laggiù, che hanno cancellato ieri. Oggi ci sei solo tu, domani quando sarò sveglio davanti al solito caffè, penserò sì, forse meglio che non mi stia a chiedere perché. Folle vita che oggi non